dentro un fuoco ardente. Sono tra tanta gente, ma non so di niente. Ho solo fame sempre di ciò che non mente. Grida che non ti sente la fortuna. Vedi che non è un discorso di pelle, manco del profumo del tuo corpo da spavento. Baby, sono un tipo profondo in verità, la realtà che mi fa schifo. Dentro le modelle, scansa il tuo culo, io sono fedele. Le tipe le guardo, ma tipo alla tele. Le tipe le scarto, ma ti sai vedere che perdo chi mi ascolta e capisce per un sedere. Le di fammi piacere, un unisono alla musica. It's my life, sostenerla fino all'ultimo battito. Scalpito esulto, continuo a mantenerla nell'hi-fi sempre più lungo. Da quando la sfida sono quattro, ribatto, batto le spatto, strafatto, attacco, riscatto, abbatto la tunica. Ehi, di lei son fatto e lei di fatto per me rimarrà l'unica. Con te, la mia vita sente dentro un fuoco ardente. Sono tra tanta gente, ma non so di niente. Ho solo fame sempre di ciò che non mente. Grida che non ti sente la fortuna. Ho giocato male le mie carte, ma le strade altro che mala sorte, mala fare. Non ce la faccio a me, chi me l'ha fatta fare? Mamma mi mette i santi nella borsa, posso bastare. Vado di corsa, senza benzina, non batte questa giostra. Quando ti tocco ti prendo anche la scossa. Facciamoci le ossa con una mossa. Volevo fare rap, ero giovane, forse ho sbagliato l'età, ora il mio sogno si sa. Ristringere la mano a chi mi ha spinto fin qua, e si è divisa il pane persino a metà. Ho bruciato le tappe del cervello, chissà chi si è messo nei guai per darmi lo stop. Ed io premo play sul tuo signora. La mia vita sente dentro un fuoco ardente. Sono tra tanta gente, ma non so di niente. Ho solo fame sempre di ciò che non mente. Grida che non ti sente la fortuna. Calcolando che se fosse stato diverso, stato dismesso, stato di fuori connesso all'eccesso. Mazzi di fiori su lastre di gesso, le teste più calde freddate nel cesso. Perso, certo che ho smesso e messo più fotta in flotta come un grande amplesso che si chiama R.A.P. Do you wanna eat me? Mi sbatti fitti, crollano i soffitti. C'è che suona nella zona fra la Roma, anche se l'ami è una lama e recide la tua gola. Senti come suona fra la vita da fendenti, visto che ti rovina come carichi pendenti. Menti ingenti, gli sporchi come denaro. Sentimenti, menti che ti trovi a riparo. Deficienti, scrivi tanti voglio l'oro, poi loro fanno cliff fra e tu ti tocchi un foro. La mia vita sente dentro un fuoco ardente. Sono tra